Il suo primo pensiero fu di gridare: Bungie, che cosa fai qui? Ma si trattenne e lo guardò. Prima di allora non aveva mai fermato il pensiero sulle fattezze di Bungie. Sapeva che non era bello. Bungie stesso scherzava sulla sua bruttezza. Eh già, ho la faccia di un saltimbanco, soleva dire con allegria. Ma che cosa importa? Non ho poi troppo da prendermela. Le Moga non si cureranno di me. E così potrò vivere pacificamente la mia vita. Ripeteva che avrebbe sposato la ragazza più brutta che avesse trovato, così l'idea di avere un marito più bello di lei avrebbe inorgoglito e allietato sua moglie. Bruttezza a parte, quando Bungie scherzava e rideva era pur sempre un amabile compagno, nonostante il grosso naso piatto, privo di ponte, gli occhietti luccicanti e la grossa bocca ridente. Ma Aiwan non lo aveva visto da parecchi mesi e soprattutto non l'aveva mai visto addormentato. Gravemente immerso nel sonno, Bungie pareva un altro. Spiccava la fronte bassa, la mascella era troppo greve, la bocca era grossa. Aiwan ora vedeva bene quanto Bungie fosse giapponese. Il corpo era tarchiato, le braccia lunghe, le mani tozze e potenti, persino i piedi, che mostrava ora privi di scarpe, apparivano corti e tozzi, meno le dita, nipponicamente prensili. Aiwan si ricordava di aver sentito monelli cinesi scorbacchiare per le vie di Shanghai un giapponese con grandi grida di scimmia, scimmia! La parola gli tornò ora in mente. Bungie aprì gli occhi, guardò un momento davanti a sé e saltò su ridendo. Aiwan! Esclamò. Come mai sei qui? Domandò tranquillo Aiwan. Cercava di persuadersi che quello veramente fosse il Bungie che conosceva. Bungie sbadigliò rumorosamente e si stropicciò gli occhi. Oh, non so, disse poi. Tutto quello che so, è che Akio e io abbiamo ricevuto l'ordine di presentarci al distretto militare di Tokyo. Arrivammo qui troppo tardi per proseguire stanotte e mi è perciò venuta naturale l'idea di venirti a trovare, non fosse che per rivivere una parentesi della vecchia allegria. Dov'è Akio? Domandò Aiwan. È qui con Sumi, ella lo ha accompagnato e non saprei ben dire dove alloggino. Forse sono assorti nella contemplazione del Fujisan sotto la luna. Come mai questa chiamata militare? Domandò ancora Aiwan. Bungie si infilava le scarpe. Ah, è quello che vorrei sapere, rispose sempre allegramente. Tutti gli anni noi ufficiali in congedo dobbiamo presentarci per il controllo previsto dalla mobilitazione. Sai, i generali sono come vecchie nonne, sempre fissati sul pensiero della guerra. Ora era in piedi e si ravviava i capelli irsuti. Yokohama ha dei bei ritrovi danzanti di geishe, disse gioiosamente. Vieni con me, Aiwan. Dopotutto sono mesi che non ci incontriamo. Aiwan rifletté un momento. Bungie avrebbe potuto dirgli qualche cosa di tamà. Vengo, rispose. Il ritrovo dove andarono era tutto scintillante di lumi. Tutti i posti erano occupati da una folla variopinta che sgranocchiava placidamente pasticcini con gli occhi fissi sul palcoscenico inondato da una luce abbagliante, volti sereni di gente che si divertiva. Sul palcoscenico si svolgeva una danza antica, solenne e pomposa, piena di allusioni storiche incomprensibili per Aiwan. Tutti la seguivano e parevano capirla. Quando finì, si levarono grida ed esclamazioni di lode. Bungie si appoggiò allo schienale della sedia, beato, trasudante compiacimento da tutti i pori. Mai visto eseguire così bene questa danza, esclamò. Ah, quella piccola Harusan, quella nel mezzo, è una ballerina famosa, tutti la conoscono. Ne avevo sentito parlare, ma non l'avevo mai vista. Aiwan confessò che non aveva fatto particolare attenzione. Tutti nella sala parlavano e ridevano e solo si chetarono quando il sipario tornò ad alzarsi. E la vicenda di come la figlia di un gran samurai si travestì da uomo e comandò gli eserciti del padre in sua vece, spiegò Bungie. La ragazza cattura il generale nemico, se ne innamora e ascoltando l'impulso del cuore vorrebbe risparmiarlo. La lotta è terribile, ma prevale la patria e il generale nemico è soppresso con la spada del padre. Se non che, visto morto il nemico amato, anche lei si uccide. Bungee si asciugò il viso congestionato che subito tornò a imperlarsi di sudore. Bel soggetto, sospirò e si guardò attorno. È un dramma famoso che tutti conoscono, ma che tutti vogliono ugualmente rivedere. La sua faccia tonda e lievemente grottesca assunse improvvisamente un'espressione di timidezza. Se avessi coraggio, disse, chiederei di vedere quella piccola Haru-san. Vorrei dirle che io... Perché non ti fai avanti? Domandò sorridendo a Yuan. Bungee arrossì. Oh, mi conosco, disse con umiltà. Non oserei domandarle di guardarmi in faccia. Yuan scoppiò a ridere. Scimmia o non scimmia, era impossibile non avere simpatia per Bungee. Nel calore di quel ritorno di affetto, rientrando a piedi con lui, gli domandò quello che aveva in anima di domandargli sin dal principio della serata. Bungee, disse non appena furono rientrati nella sua camera. Che ne è di Tama? Era in piedi vicino alla tavola e attese. Bungee sedette sul letto e lo guardò con occhi ingenui. Ti dirò, cominciò. Si frugò nel taschino della giacca. Ecco qua una lettera, me l'ha data per te, non senza raccomandarmi di non consegnartela senza averti prima detto tutto. Così dicendo, estrasse una busta lunga e stretta, lievemente filigranata di fiori rosei, uguale a quelle che Aiwan già conosceva così bene. Allungò una mano, ma Bungiri tirò la lettera. Mi ha detto, cominciò imbarazzato. La terrò soltanto, non l'apro mica, s'affrettò a dire Aiwan. Lo prometto, soggiunse vedendo l'espressione dubitosa dell'amico. Bene, convenne Bungee, gli consegnò la lettera e stette per un attimo a osservarlo, poi si schiarì la gola. Ecco qua, cominciò. Aiwan mordeva il freno, avrebbe voluto dirgli di far presto, quel Bungee era così lento che non avrebbe finito il suo racconto che all'alba. Ecco qua, 2 giorni fa pareva la solita Tamà, collocò nei vasi i soliti fiori freschi e spolverò le stanze. Ma quando fu sola con me mi disse di far dire a Sumi Hidakyo che sarebbe andata a farle visita poco prima del crepuscolo. E ci andò, infatti. Non saprei bene perché, salvo per certa intesa che doveva esserci tra di loro, ma ciò avvenne dopo. Dopo che cosa? Gemette Aiwan. Dopo la visita fatta a mio padre dal generale Sekki, spiegò Bungee. È venuto a far visita a tuo padre? Gridò quasi Aiwan. Bungee fece cenno di sì. Mio padre, dopo la visita di Sekki, chiamò Tama nella sua stanza e le parlò, presente il generale, il quale parlò anche lui. Quella sera ricordo che giunsi a casa tardi perché ero andato a vedere certo film americano dal titolo. Giusto, che titolo aveva quel film? In nome del cielo, Bungee, prosegui! Gemette Aiwan. No, disse briosamente Bungee, hai ragione, il titolo non ha importanza, ma se mi ci mettessi potrei ricordarmelo. La trama era pressappoco così. Una ragazza carina riceve in camera la visita di certo ladro nel quale riconosce un'antica conoscenza e lo sposa. Beh, ma per tornare a Tamà, rientrando trovai la casa ancora illuminata e un gran confabulare. Aveva ricevuto la mia lettera? Lo interruppe Aiwan. Bungee lo guardò sbalordito. Ma Aiwan ora non aveva tempo per spiegazioni e lacerò la busta di Tamà. Non ti ho detto, cominciò Bungee. Non posso aspettare, rispose categorico Aiwan. Beh, avevo quasi finito, disse amabilmente Bungee. Si buttò all'indietro sul letto e. Ah, tutti questi pasticci d'amore, cominciò e si mise a ridere. Ma Aiwan non l'udiva e i suoi occhi divoravano le parole scritte sul foglio filigranato. Aiwan, scriveva Tamà. Ti avevo assicurato che non volevo sposare nessuno, ma mio padre mi ha detto che sta per scoppiare una guerra con la Cina. Perciò tutto cambia. Persino mia madre ora dice che è mio dovere sposare il generale Sekki, visto che deve andare a combattere per il nostro paese. Non temporeggia più mia madre, e io vedo il dovere mio. Destino. Tamà. Il nome era preceduto da una cancellatura, ma Aiwan riuscì lo stesso a leggere che cosa c'era sotto. C'era la parola tua. Il dovere. Ah, era come una droga, come un veleno in questi giapponesi. Ma se la signora Muraki. Ah, non aveva un minuto da perdere. Qual è il mezzo più rapido per andare a Nagasaki? Il treno o l'aereo? Domandò Bungee. Bungee si rizzò a sedere sul letto. Per dove? Domandò. Per l'isola di Kyushu, gridò Aiwan. Bungee scosse il capo. Mio padre non ti permetterà di vederla, disse con commiserazione. La vedrò, o se la vedrò, giurò Aiwan. Bene, disse un po' esitante Bungee, il treno della notte è già partito e naturalmente l'aereo del mattino è più rapido del treno a patto che parta, ma c'è sempre da fare i conti col maltempo o con qualche altro incaglio del genere. Aiwan spalancò la finestra. Nel cielo non c'erano nuvole, la luna splendeva chiara sulla città. Si può vedere il Fujisan, esclamò Bungee. Andrò in aereo domani, decise Aiwan, ma c'era il resto della notte da passare. Io dormo, disse con fermezza Bungee. Oh, dormi pure sul mio letto, io non potrei chiudere occhio, dichiarò Aiwan. Sedette al tavolo e si prese il capo fra le mani. Che cosa poteva fare? Ti aiuterei se potessi, disse Bungee con bontà, ma vedi, devo presentarmi domani all'autorità militare. Oh, l'aereo diretto non parte che a mezzogiorno, borbottò Aiwan. Bungee convenne. Bene, se Shio non mi cercherà per qualche cosa, potrei tornare con te dopo la mia iscrizione negli elenchi distrettuali. In tal caso, se tu volessi scrivere una lettera o comunque rimettere un messaggio qualunque, potresti servirti di me. Sì, esclamò Aiwan alzando gli occhi. Buona idea, Bungee, che buon amico tu sei per me. Ah, rispose Bungee. Bene, sì, ecco. Ti voglio bene, lo sai. Rise e cominciò a spogliarsi. Ma Aiwan aveva già cavato carta e inchiostro, avrebbe visto Tama, ne era certo. Ma nel caso in cui non ci fosse riuscito, lì per lì, Bungee avrebbe potuto recapitare la lettera. Scrisse fino a tardissima ora della notte, supplicando, perorando, gridando il suo amore. Anche se i nostri due paesi si dichiarassero la guerra, Tama mia, scrisse più volte. L'evento non ci toccherebbe, tu e io siamo noi e noi ci apparteniamo a vicenda. Accade che i governi. Non sentiva alcuna sudditanza nei confronti dell'attuale governo cinese, non era il suo governo. Accompagnato dal sonoro russare di Bungee, scrisse tutto, quello che sentiva. Poi rimase a lungo a rileggere quello che aveva scritto. Quando finalmente ripiegò i fogli, la luna era sparita ed era subentrata all'oscurità foriera dell'alba. Spense la luce e sedette, vestito com'era, accanto a Bungee, come un uomo che incespichi esausto e precipiti in un pozzo, cadde in un sonno profondo. Si svegliò di soprassalto al rumore fatto da Bungee che si levava. Che ore sono? Domandò Bungee con voce ancora assonnata. Il sole irrompeva a torrenti nella camera. Aiwan, anche lui imbambolato, guardò l'orologio a polso. Le 8:30, rispose. Bungee scattò come una molla. A chi ho io? Dobbiamo prendere il treno delle 9, esclamò e cominciò a vestirsi di furia. Poi si precipitò al lavabo e giù abluzioni con l'acqua corrente. Il percorso è lungo, brontolò. Dovrò procurarmi qualche cosa da mangiare sul treno durante il viaggio. Parlando si rassettava alla meglio i duri capelli. Tornerò non appena potrò, promise. Se Shio non mi vuole, andrò. Faceva contemporaneamente 100 cose. Mentre si annodava alla brava la cravatta, sabbottonava la giacca, cercava il cappello, era sulla porta. Ciao! Sorrise con una smorfia e disparve. Lentamente Aiwan si alzò. Era ancora esausto nonostante il sonno. Si spogliò, si lavò e si cambiò d'abito, poi sedette e rilesse con attenzione la lettera di Tama e la risposta che aveva preparato. E finalmente andò come al solito al ristorante, mangiò e si diresse al magazzino. Il grande pezzo di giada che Shio aveva tanto lodato era sparito. Certo, Shio se l'era portato a casa. Quella scomparsa lo irritò. Era come se avesse perduto un tesoro, ma lavorò con ostinazione ugualmente ripetendo i controlli. Nulla ora importava. Una cosa sola contava. Poteva raggiungere Tamà in tempo e, raggiuntala, sarebbe riuscito a persuaderla. Ma poi gli balenò un'idea. Persuaderla a fare che cosa? Che cosa avrebbe detto a Tamà? Dove avrebbe potuto condurla? Si fermò, cogitabondo, con in mano una vecchia e contorta radice di ciliegio dalla quale, lucidata e dipinta, era stata ricavata la faccia demoniaca di un vecchio. Abbassò gli occhi, la faccia sembrò sbirciare all'insù verso di lui con cinici occhi canzonatori. C'era forse nel mondo un posto dove Tamai lui potessero potessero rifugiarsi? Prima che avesse potuto rispondere a quella domanda, sentì qualcuno che lo chiamava a gran voce. Era Bungee, Bungee che irrompeva attraverso la porta con gli occhi fuori dalle orbite, tutto in lacrime. Aiwan! Ansimò. Shio! Dov'è Shio? Non l'ho visto, rispose spaventato Aiwan, lasciando cadere il vecchietto scolpito che teneva in mano. Ma Bungee, Akio! Singhiozzò Bungee. Akio! Akio! E gli tese un foglio, e su di esso, nei fini caratteri di Akio, si leggeva: a mio padre e ai miei fratelli quanto segue. Ho ben ponderato il passo che ora compio. Conosco il motivo della mia chiamata al distretto militare. Noi dobbiamo essere inviati in Cina a combattere, ma io non potrei partecipare all'uccisione di miei simili e poiché è impossibile disobbedire all'imperatore quando ordina, non rimane che un mezzo, quello al quale ora ricorro. Quando questa lettera sarà pervenuta nelle vostre mani, avrò consegnato il mio corpo al Fujisan e con me ora, come sempre, è Sumi. Quando? Quando? Balbettò Aiwan. Quando giunsi alla stazione per ritirare il mio foglio di viaggio, singhiozzò Bungee. E quando ebbi declinato le mie generalità, mi dissero che questo foglio era stato lasciato per me. Lo presi, lo lessi e, vedendomi scoppiare in lacrime, un ufficiale lo lesse a sua volta. Era così arrabbiato. Dice che Akio è un traditore, che non aveva il diritto di uccidersi in un momento in cui l'imperatore ha bisogno di uomini. Le lacrime inondavano il volto di Bungee e gli colavano giù fitte per le gote. Shio lo sa? Domandò a bassa voce Aiwan. Bungee scosse il capo. Vieni, disse Aiwan. Allungò la mano e prese quella di Bungee che gli restituì la stretta con le sue tozze dita. Poi, senza dir motto, andarono all'ufficio di Shio. Lo trovarono seduto alla sua scrivania. Prima che avesse potuto far di più che alzare la testa, Aiwan gli aveva posto davanti la lettera di Akio. Shio la lesse, batté qualche volta le palpebre e sul volto gli si dipinse un'espressione di costernato stupore. Depose il foglio. Sapevo che Akio un giorno o l'altro avrebbe finito col fare questo, disse tranquillamente. Era in un continuo bilico fra la vita e la morte. La morte pareva avesse per lui la dolcezza della vita. Si interruppe, inghiottì qualche cosa, poi soggiunse: quando eravamo ragazzi, se qualcosa non andava per il suo verso, diceva sempre che sarebbe morto. Tacquero per un pezzo. Poi Shio disse oppresso: Bungee, devi andare a casa subito. Io vedrò se si potrà recuperare le salme. Qualche volta essi. La gente non salta giusto dalle rocce nel cratere del vulcano. Oh, non posso, disse Bungee. Io devo presentarmi oggi stesso al distretto militare. Mi hanno soltanto concesso queste poche ore. I due fratelli si scambiarono un'occhiata costernata. Devo partire fra 3 giorni, disse Bungee con semplicità. Fra 3 giorni, per la Manciuria. Restarono a guardarsi, senza sapere che cosa dirsi. Da buon giapponese, soggiunse Bungee con voce sorda, devo andare. Lo so, disse lentamente Aiwan, lo capisco. Si volse a Shio. Persino in quel momento pensava una sola cosa. Se vi fidate di me, disse, andrò io da vostro padre invece di Bungee. Uno strano senso del fatto provvidenziale lo sosteneva ora. Grazie, andate voi allora, disse Shio, e dite a mio padre di non essere troppo in collera con Akio. Così la morte aprì la porta fra lui e Tamà. Mentre egli compiva la sua ambasciata, Tamà ascoltava accovacciata in ginocchio, composta un po' dietro i genitori. Il signor Muraki lo aveva ricevuto dapprima a quattro occhi, ascoltatolo, lesse la lettera e tacque alquanto. Poi piegò con cura il foglio fino a formare un piccolo quadrato e lo ripose nella tasca interna della manica. Finalmente disse: fate chiamare mia moglie e mia figlia. Aiwan uscì, trovò una domestica e le trasmise l'incarico. Poi tornò nella stanza dove sedeva il signor Muraki, sempre immobile al suo posto. Aiwan sedette e neppure allora il vecchio si mosse. Pochi istanti dopo la porta si aprì e la signora Muraki entrò. Aiwan si levò senza alzare gli occhi, non sarebbe stato cortese, e preferì guardare altrove, ma sapeva, sentiva che Tama era nella stanza. Con la coda dell'occhio, sotto le ciglia abbassate, finì con l'intravedere l'orlo del suo kimono azzurro sul pavimento. Anche lei c'era. «Sedete», disse il signor Muraki. Tutti obbedirono. Tama si inginocchiò. Il signor Muraki trasse dalla manica la lettera di Akio, si raccolse un momento coi denti serrati ed i muscoli mascellari tremanti a fior di pelle. Poi cominciò a leggere con voce chiara e tranquilla lo scritto di Akio. Quando ebbe finito, ripiegò la lettera e tornò a nascondersela nella manica. Nessuna parlò. Una volta sola, Yuan sentì un singhiozzo subito represso. Era Tama. Alzò gli occhi e la vide che si mordeva le labbra e si torceva le mani. La signora Muraki sedeva immobile come una statua, il volto inondato di lacrime che via via s'asciugava con un angolo della manica. Per un figlio che ha disobbedito al suo imperatore e a suo padre, disse il signor Muraki con la medesima voce tranquilla con la quale aveva dato lettura del foglio, non può esserci lutto. Nessuno quindi porti il lutto in casa. Le mani aperte e posate sulle ginocchia col palmo verso l'alto, tremavano un poco. Tossì e soggiunse: Non ho altro da dire. Poi, rivolta ad Aiwan, avrete bisogno di una notte di riposo prima di ritornare. La vostra camera è quella solita. Grazie, signore, mormorò Aiwan. Il cuore cominciò a battergli con forza nel petto. Conosceva ora il sentiero che conduceva alla cascatella che sfociava leggera proprio fuori la porta di Tamà. Non c'era più bisogno della lettera ora. Vogliate scusarci, signore, disse debolmente la signora Muraki al marito. Questi fece un cenno col capo e Aiwan fu di nuovo in piedi. Alzò rapidamente gli occhi e incontrò quelli di Tamà velati di lacrime, tuttavia imploranti e pieni di calore. Da quello sguardo capì che l'amata lo aspettava. Poco dopo la mezzanotte era davanti alla sua porta, facendosi piccolo e cercando di celarsi nell'ombra delle pesanti fronde che piovevano dal tetto. Grattò leggermente la carta della tramezza come l'altra volta. La tramezza s'aprì e il pallido volto di Tamà comparve nell'ombra. Aiwan la vide portare le dita alle labbra, in tacito invito al silenzio, e avvertì la fragranza di un profumo di rosa. Immobile, quasi senza respirare, non sentiva che lei. Vieni all'ombra della veranda. Il suo mormorio era più lieve del fruscio di un'ala. In silenzio gli passò dal muschio del vialetto alla stuoia che ella aveva deposto sul pavimento per attutire il suono dei suoi passi. Muti, si guardarono a lungo, poi Aiwan la strinse a sé. Era la prima volta nella sua vita, non aveva mai abbracciato una donna. Novità di quelle forme femminili. Se la tenne stretta, meravigliato che nel trasporto dell'amore un corpo di donna potesse così appoggiarsi al suo. Un corpo che pure diverso poteva aderire così da formare quasi parte del suo. Rimasero a lungo abbracciati, poi Tamà si ritrasse. Oh! Esclamò sommessa. E pensare che mi ero detta, se viene non vorrò vederlo. Ma io ti avrei trovata, dichiarò solennemente Aiwan. Dovunque tu vada, non potrai mai sottrarti a me. Oh, non lo dire, Aiwan. Lo ripeto invece, Tamà. Sai che c'è la guerra. Mai fra noi. Oh, non posso, non posso. Non c'è niente da fare. Non mi resta che compiere il mio dovere. Non avevi mai creduto che fosse tuo dovere sposare un vecchio che detesti? Mormorò Aiwan con furore. No, ma ora tutto è diverso. Durante la guerra gli uomini giapponesi si battono e le donne concepiscono figli. Tamà, e sei una donna moderna. Ma è la verità. Che cos'altro ci resta da fare? Egli la strinse a sé con forza, il cuore gli batteva nel petto sino a fargli male. No, disse con voce sorda, non te. Tu e io scapperemo in qualche paese dove di guerra non si parli neppure, dove nessuno possa prenderci, dove non abbia importanza che io sia cinese e tu giapponese. Un luogo come quello che dici nel mondo non esiste, gemette lei. C'è, c'è, assicurò lui. Tu promettimi soltanto che non lo sposerai. Farò io le cose in modo. S'udì il rumore di un passo. Un rametto si spezzò. Entrambi rimasero avvinghiati, presi da un istantaneo terrore. Videro là il signor Muraki che voltava l'angolo della casa. Tamà afferrò Aiwan per le braccia e lo tirò silenziosamente in camera sua. Immobili sestettero dietro la chiusa impannata a 5-6 metri appena dal vecchio che si era fermato vicino alla cascatella e la guardava a capochino. Dal loro nascondiglio potevano vedergli i capelli lucidi al lume della luna. In mano teneva un mazzetto di fiori bianchi di mirto strappati da una pianta passando. La sua sosta fu così lunga che i loro corpi irrigiditi nell'attesa dolevano. Poi si chinò e abbandonò il mirto nel piccolo stagno sotto la cascata. Lo udirono sospirare, poi voltarsi e dirigersi a passi leggeri verso l'altro lato del giardino. Ma loro non ardirono indugiarsi oltre. Aiwan si chinò fino alla guancia di Tamà, profumata e fresca come un'albicocca. Prometti, sussurrò. Oh, mormorò lei, vattene. Promettimi soltanto che aspetterai. La supplicò ancora lui, almeno fino a quando noi si possa accertare se ci sarà guerra oppure no. Può darsi che tutto si risolva in nulla. Sentì le labbra di lei sulla sua gota, morbide e calde. Vai, vai, mormorò, sento qualche cosa. Egli scivolò fuori al lume della luna e si precipitò in camera sua. Certo, pensava. Dovevano esserci isole nel mare, lungi dalle guerre e dalle complicazioni che sorgevano tra i popoli. Buttato sul letto, rimuginò a lungo questi e altri pensieri. Certo, quelle isole esistevano, ma poi si sovvenne che Tamà non aveva promesso nulla.